TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Semestre filtro a medicina e chirurgia e odontoiatria, oggi la seconda sessione degli esami per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale. Pedaggi invariati per autostrade Alto Adriatico anche nel 2026, la richiesta confermata al Ministero dei Trasporti. Consiglio regionale in aula, l'emendamento Jolly della Giunta, nuova seduta sulla legge di stabilità. Incendio a San Canziano, una persona ustionata, intossicata dai fumi. A Spilimbergo incontro con gli studenti dopo l'incidente shock di ieri a Maniago. Torna a salire il numero delle imprese metalmeccaniche dopo 2 anni di contrazione e le prospettive del settore nel rapporto di fine anno. Trieste, depuratore di Zaule chiuso per manutenzione, ma potrebbe riaprire in anticipo rispetto ai tempi previsti. Le 12.31, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Dario Ronzoni. Nelle università oggi la seconda sessione degli esami del semestre filtro per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia e odontoiatria. Siamo andati all'Ateneo di Trieste per vedere qual è il clima e raccogliere le voci dei candidati. Cellulari, tablet, zaini, tutto insacchettato e chiuso, aule trasformate in stanze guardaroba temporanee, sul tavolo solo borraccia d'acqua e qualche snack, chi porta cioccolato al caffè, chi frutta fresca. Dura 3 ore non stop la seconda prova del test ingresso a medicina e odontoiatria, inizio in tutta Italia alle 11 e se alle 10 tutti seduti e telecamere fuori, già alle 8 del mattino moltissimi gli studenti all'ingresso dell'università. Qual è la prova che fa più paura? Sinceramente chimica, penso, sì. Quella che conosco di meno, quella che insomma non ho preparato alla fine. Eppure, a far strage nel test del 20 novembre tra chimica, fisica e biologia, in tutta Italia fu fisica. Meno del 15% delle persone ha superato la prova e infatti è quella che ora conta più iscritti, 324 a Udine e 514 a Trieste. La scorsa volta promossi nelle tre materie solo il 10%. Una è Anna Goriziana, che è passata e non si accontenta. Rifarò chimica e biologia per alzare il voto e speriamo bene, incrociamo le dita. Quindi non era impossibile? Beh, io ho studiato 9 ore al giorno da settembre, però nel senso era molto tosta, molto stressante. Bravo anche Giacomo, bellunese. Ho deciso di ridare fisica e chimica nonostante avessi un risultato positivo perché penso di poter migliorare il voto. Molti gli studenti fuori sede, sia a Trieste che Udine, hanno deciso di fare lezioni in presenza, mentre altri atenei hanno fatto online. Quanto hai studiato per questa prova? Ma io personalmente mi sono preparato, sono arrivato qui a settembre, insomma ogni giorno 6-8 ore le facevo. E c'è una torinese di 30 anni, già infermiera dal 2018, ha fatto il Covid in pronto soccorso, ora lavora e frequenta medicina. Metterti in competizione con altri ragazzi molto più giovani cosa significa? Per te. Loro hanno tutto da costruire ancora, io ho un pezzettino diciamo che l'ho già ottenuto. Se va sì, se no va bene, è stata un'esperienza e comunque mi ha fatto crescere. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nessun aumento per il 2026 sulla rete di autostrade Alto Adriatico. La concessionaria, in una lettera inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito l'intenzione di non richiedere incrementi tariffari. Una richiesta in linea con l'aggiornamento del piano economico-finanziario, che pure prevede la realizzazione di 1 miliardo e quasi 900 milioni di euro di investimenti per opere da eseguire nel periodo concessorio fino al 2053, principalmente relativi agli interventi di completamento della terza corsia dell'autostrada A4. Nonostante i forti investimenti programmati, spiega il presidente Marco Monaco, abbiamo fatto una scelta coraggiosa in decisa controtendenza nella chiara direzione di favorire le realtà economico-locali e gli stessi lavoratori e le famiglie. I pedaggi sulla rete di autostrade Alto Adriatico sono invariati dal 2018. La politica in consiglio regionale, la nuova seduta sulla legge di stabilità, lavori cominciati alle 11.30, si attende la presentazione dell'emendamento della Giunta con i finanziamenti aggiuntivi, tra i quali quelli per i danni del maltempo di 3 settimane fa, anzi il cosiddetto emendamento Jolly da 75 milioni viene illustrato all'Aula proprio in questi istanti. Il pacchetto Jolly vale 85 milioni di euro, importante, oltre alla destinazione dei 30 milioni per il maltempo, appunto, alla protezione civile, 32 milioni su 2026 destinato alle giovani mamme fino a 30 anni che decidono di avere un figlio, perché per loro c'è una previsione di un contributo fino a 40.000 euro a fondo perduto per l'acquisto della prima casa, con caratteristiche di ISEE fino a 35.000 euro, essere titolari di carta famiglia ed anche occupati o comunque occupati in attività di studio, di formazione. A questo si aggiunge una misura importante che abbiamo voluto sostenere su indicazione del Presidente Fedriga, ovvero sia un sussidio per le giovani mamme fino a 30 anni di 500 euro al mese, purché siano inserite nei criteri che ho detto, per il primo anno di età del bambino, e questa misura per le mamme con più di 30 anni si attesta su 250 euro mensili. Abbiamo previsto ulteriori importanti proposte emendative, in particolare la valorizzazione del territorio regionale anche in occasione della Capitale Italiana della Cultura 2027 Pordenone, con 8 milioni di euro di risorse per le iniziative appunto a questo finalizzate. Il 50° del terremoto del 76 avrà ulteriori risorse per la valorizzazione delle iniziative e l'organizzazione degli eventi di commemorazione, e poi abbiamo inserito una misura nuova, un fondo di progettazione per le scuole paritarie per gli interventi di miglioramento sismico, ma anche gli interventi di ampliamento, di nuova costruzione di queste realtà sul territorio. Sebastiano Franco, TGR Friuli Venezia Giulia. La voce che avete sentito è quella dell'assessora regionale alle finanze, Barbara Zilli. È stata rinviata lunedì la variazione di bilancio per consentire al Comune di Trieste di anticipare 30 milioni di euro per il progetto dell'Ovovia, oggetto di polemiche e battaglie giudiziarie in città. La seduta del Consiglio Comunale si è tenuta ieri pomeriggio, ma vista la mancata intesa all'interno della maggioranza di centrodestra, il sindaco di Piazza ha preso tempo e ha rimandato la delibera all'inizio della settimana prossima. Il ministro per i trasporti Salvini aveva preso l'impegno sul finanziamento dell'infrastruttura quando si è capito che il progetto non avrebbe beneficiato dei fondi del PNRR come inizialmente previsto. Il MIT ha successivamente confermato i fondi, ma stanziandoli in 8 rate a partire dal 2027 fino al 2034. Il Comune a questo punto dovrebbe anticipare almeno una parte dei fondi, avendo già assegnato l'appalto relativo alle società Leitner per la realizzazione. Intanto il TAR ha emesso 5 sentenze che hanno annullato alcuni passaggi importanti dell'iter amministrativo, come Vinca e VAS. Un sesto ricorso pende davanti al TAR del Lazio. Durissime le critiche da parte dell'opposizione. Sono le 12:37 minuti, siamo alla cronaca nera. Un incendio è scoppiato ieri sera in un appartamento al secondo piano di una palazzina a San Canzian di Sonzo. Una persona che era rimasta all'interno ha riportato ustioni ed è rimasta intossicata a causa dei fumi. È stata soccorsa, portata in salvo dai vigili del fuoco per essere poi trasportata all'ospedale. Altre 6 persone che si trovavano negli appartamenti vicini sono state portate fuori dal palazzo. I pompieri hanno provveduto a spegnere le fiamme, poi hanno messo in sicurezza l'appartamento andato a fuoco e l'intero palazzo. Al termine delle operazioni gli abitanti hanno potuto rientrare nei loro alloggi, ancora in corso di accertamento le cause dell'incendio. Il giorno dopo il terribile incidente di Maniago, nel quale un automobilista di 43 anni ha perso la vita in un frontale contro un pullman, siamo andati a Spilimbergo, dove vanno a scuola diversi degli studenti rimasti feriti. Il tragico incidente stradale di ieri, costato la vita al 43enne Fabio Floriduz, deceduto nell'impatto con una corriera che trasportava studenti, ha toccato profondamente le comunità di Maniago, Vaionte e Spilimbergo e ha lasciato un segno nei ragazzi e nelle ragazze che quella mattina erano diretti a scuola. Incontriamo alcune classi e i loro insegnanti in occasione dell'intitolazione di un gelseto all'inventore dei giochi paralimpici Antonio Maglio, parte dell'iniziativa La Memoria del Legno al centro progetto Spilimbergo. Marco Pelosi per l'Istituto Il Tagliamento. Colpisce il fatto che appunto recandosi a scuola sia avvenuto un evento così tragico con una vittima, e con la messa in pericolo della sicurezza degli studenti. I genitori ci affidano e affidano anche ai mezzi pubblici i loro figli affinché abbiano una vita tranquilla, e quindi una cosa del genere in qualche maniera colpisce e sconvolge. È di Spilimbergo anche l'autista della Corriera, rimasto gravemente ferito nell'impatto operato ieri sera ad entrambe le gambe, è in prognosi riservata. 59 anni, da oltre 25 lavora per l'ATAP, descritto dai colleghi come uno dei migliori autisti. Dopo l'urto, bloccato per ore tra le lamiere ma rimasto cosciente, il suo pensiero è subito andato alla sicurezza dei suoi giovani passeggeri. Il sindaco di Spilimbergo, Enrico Sarcinelli. L'autista è un nostro concittadino, ha subito evidentemente dei danni in un impatto violentissimo, ma insomma auspichiamo che possa riprendersi al più presto possibile. Anche a lui la nostra vicinanza in questo momento difficile, che evidentemente in casi come questi va affrontato con grande delicatezza. Il mezzo è sotto sequestro. Dall'azienda del trasporto pubblico fanno sapere di aver messo a disposizione dell'autorità i filmati delle telecamere interne. Spilimbergo, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. I temi del lavoro, una schiarita nel settore della metalmeccanica. Crescono le aziende dopo una persistente contrazione. Per il consuntivo sul fatturato 2025 bisognerà attendere ancora qualche settimana, ma le proiezioni sono incoraggianti. Sentiamo allora quali sono gli ultimi dati dell'Osservatorio Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia. Torna a crescere dopo due anni di arretramento il numero di imprese registrate nel settore metalmeccanico in Friuli Venezia Giulia. Più 0,9%, ultimo dato disponibile di poche settimane fa per il 2025, dopo due anni con segno negativo, meno 0,7% nel 2023 e meno 0,6% nel 2024. Il resto della manifattura regionale mantiene invece una dinamica negativa. Lo riporta il nuovo report dell'Osservatorio Metalmeccanica FVG, promosso dal cluster Metalmeccanica Friuli Venezia Giulia, ente privato che coordina le iniziative volte allo sviluppo del settore su delega della regione. Tre quarti delle imprese osservate si trovano nelle province di Udine e Pordenone. Ancora troppo presto per tirare le somme sul fatturato 2025. Tra il 23 e il 24 aveva subito un calo più marcato del 4,1% rispetto al resto d'Italia. Le imprese medio-grandi con fatturati di oltre 50 milioni di euro hanno però sofferto di meno. Per loro il decremento dei ricavi è stato inferiore all'1%, mentre per le micro-imprese con fatturati fino a 2 milioni di euro la variazione è stata peggiore di oltre il 5%. Dal report emerge come il mercato premi le aziende attive nell'export estero, che puntano su certificazioni ambientali, possiedono brevetti e certificazioni di qualità particolarmente importanti nel settore della meccanica di precisione e della componentistica. In particolare, le aziende con almeno un under 40 nel board hanno registrato crescite del fatturato di quasi il 27% nel 2024, mentre quelle con tutti i membri over 65 si sono fermate a poco meno del 6%. Conta la dimensione aziendale, ma anche la strategia, rimarca Sergio Bare, il presidente del cluster metalmeccanica. Sempre più importante, sottolinea, aggregarsi e avere catene di comando corte, capaci di reagire al mercato analizzando i dati e, se necessario, assumendosi dei rischi. Udine, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. A Trieste è da tempo chiuso per manutenzione il depuratore di Zaule, nel quale vengono conferiti i liquami degli spurghi. L'alternativa per gli operatori è quella dell'impianto di Staranzano, ma con un aggravio di tempi e costi. Revocato all'ultimo minuto lo sciopero degli operatori dei servizi ambientali, che ha rischiato di lasciare cassonetti e contenitori non vuotati su tutto il territorio nazionale, le aziende che eseguono interventi di spurgo a Trieste fanno i conti con lo stop temporaneo al conferimento dei liquami nel depuratore di Zaule a sud-est della città. La ragione è legata a un intervento di miglioramento dell'impianto gestito da Acegas APS Amga, che hanno ottenuto la necessaria autorizzazione da parte della regione Friuli Venezia Giulia a fronte di una serie di prescrizioni. Fra questa appunto allo stop temporaneo ai conferimenti, che si sta inevitabilmente traducendo in disagi e costi in più per gli operatori. La comunicazione ai soggetti interessati era arrivata prima dell'estate, nel mese di giugno. Il blocco è di fatto entrato in vigore nella seconda metà di novembre e dovrebbe durare 3 mesi, secondo le previsioni, anche se l'auspicio da parte del gestore è quello di riuscire, salvo imprevisti, a ripristinare il normale funzionamento dell'impianto prima di Natale. Nessun disservizio invece per lo sciopero nazionale del comparto pubblico e privato dei rifiuti e dell'igiene urbana, che era stato indetto per oggi da FPCGL, FIT CISL, UIL Trasporti e FIADEL. Proprio a poche ore dalla protesta è stata infatti raggiunta l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto nazionale. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Un riconoscimento in campo ambientale è stato assegnato alla società Lignano Pineta da Scal Europe, organizzazione associativa internazionale attiva da oltre 90 anni in ambito turistico, di cui Lignano Pineta fa parte. Il riconoscimento è stato consegnato a Budapest e premia il progetto lignanese, valutato come un modello replicabile di responsabilità ambientale e innovazione. Tra le azioni concrete che sono valse il premio ci sono gli impianti con pannelli fotovoltaici per la generazione di energia pulita, impianti solari termici per l'acqua calda, l'impiego di mezzi elettrici con punti di ricarica, le attrezzature per il filtraggio dell'acqua, per l'utilizzo di borracce anziché bottigliette in PET e la collaborazione con un produttore artigianale di scarpe da materiale riciclato. Le trattative per il clima procedono a rilento, ma c'è stato un ritorno in scena della società civile che chiede di mettere più impegno. È il bilancio dell'attivista Sara Segantine, reduce dalla COP30, la conferenza sul clima che si è svolta in Brasile e ospite della nostra puntata di Buongiorno Regione. 28 anni e già una vita votata alla protezione dell'ambiente. Alla COP30, la conferenza internazionale sul clima di Belém in Brasile, Sara Segantin, trentina di nascita, triestina d'adozione, ha portato la voce dei giovani attivisti contro la crisi climatica. I negoziati sono stati indubbiamente deludenti, dato il contesto geopolitico attuale non c'è da sorprendersi. Quello che è cambiato è che è tornata alla ribalta la società civile, decine di migliaia di persone cappeggiate dai leader indigeni per le strade di Belém, ma anche nei titoli di tutti i giornali e telegiornali. Erano anche 10 anni dagli accordi di Parigi, quindi il momento di fare il punto, di capire dove siamo, quali i passi futuri, la prima volta che gli Stati Uniti sono completamente assenti, la prima volta in cui l'Europa partecipa facendo fatica a mantenere la strada del Green Deal, quindi sicuramente non siamo al massimo dell'ambizione per quello che riguarda le misure politiche, però c'è stata una presa d'atto intanto anche del concetto di giustizia climatica, diritti umani, questioni ambientali sono un'unica cosa, quindi io dico avanti tutta. Un attivismo il suo intrapreso fin da giovanissima con i Fridays for Future, di cui è stata una delle fondatrici. Io credo che attivismo sia quello che ci rende umani, no? Il contrario di passività, questo senso di responsabilità, di rispondere a ciò che non funziona, sicuramente un percorso. L'educazione della famiglia, della scuola, delle esperienze. Ho girato con il volontariato, con i progetti, il mondo, ma anche la nostra Italia. Più vedi, più ti rendi conto di quanto non funziona e di quanto c'è di meraviglioso. Abbiamo ancora tempo per invertire la rotta della crisi climatica? Possiamo senz'altro evitarne gli effetti peggiori. Abbiamo superato quella soglia dell'1.5, si può ancora però abbassare drasticamente la curva. Credo che il ruolo della nostra Italia, soprattutto della nostra Unione Europea, sia mantenere barra dritta e farsi ancora quella portavoce di democrazia, di giustizia sociale e ambientale che è stata nei secoli. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Il personale della Capitaneria di Porto di Trieste ha svolto una serie di attività formative rivolte a oltre 200 studenti delle classi prime del Liceo Petrarca e dell'Istituto Comprensivo Svevo di Trieste. Tema portante, la sicurezza in mare e il rispetto e la tutela dell'ambiente marino. Particolare interesse ha suscitato la partecipazione di uno dei rescue swimmer, figura specialistica altamente addestrata per il soccorso in mare, che ha presentato il proprio equipaggiamento operativo e condiviso con gli studenti la propria esperienza professionale. Nella mattinata di ieri è stata rimossa dalla vetta della Mariana la statua della Madonna, definita Nostra Signora della Carnia. Per alcuni mesi sarà sottoposta a un intervento di restauro conservativo per garantire sicurezza e preservazione. Un'operazione che è durata circa 2 ore e mezza. La statua è stata trasportata insieme al supporto in elicottero per un totale di circa 430 kg ed è stata affidata alla parrocchia di Tolmezzo, che si occuperà del restauro. Al termine verrà esposta nelle chiese della Carnia e poi ricollocata, secondo le previsioni, nel mese di maggio. Opera dello scultore udinese Max Piccini, la statua venne realizzata con una lega di alluminio e magnesio. Fu collocata in vetta il 7 settembre del 58, trasportata a dorso di mulo da alcuni ragazzi del Collegio Salesiano di Tolmezzo e issata con le corde per alcuni tratti. Le 12:49 minuti, uno sguardo alla situazione del tempo. Abbiamo cielo in prevalenza sereno sulla zona montana, poco nuvoloso o variabile su pianura e costa. Le temperature delle 11, a Trieste 10,5 gradi, a Gorizia e a Pordenone 9, a Udine 8,5, nell'area montana Tolmezzo 5,5 decimi, a Tarvisio 7, a Sappada 5 decimi di grado sotto lo zero, a Forni di Sopra 8 gradi, e sul Piancavallo 8,5 decimi, ancora in quota sull'Ussari e sullo Zoncolan abbiamo 9,5 gradi, naturalmente positivi. Situazione di inversione termica, ancora sulla costa a grado 8,5, a Lignano 8 gradi. Le previsioni per oggi pomeriggio vedono sulla zona montana cielo in prevalenza sereno con marcata inversione termica a fondo valle. Su pianura e costa cielo poco nuvoloso o variabile con possibile maggiore nuvolosità sulla fascia orientale. La pagina della cultura, alcuni libri di cui si parla oggi nell'ultima giornata di Pordenone legge fuori città. A Sacile Alice Basso presenta Le 27 sveglie di Atena Ferraris a Palazzo Ragazzoni alle 18:30. A Casarsa della Delizia c'è il premio Campiello Federica Manzon con Alma a Palazzo Burovic alle 20:30 e a San Vito al Tagliamento Matteo Bussola presenta il suo nuovissimo libro La luce degli incendi a dicembre al Teatro Arrigoni alle 20:45. Per gli spettacoli Salve o Vita, Slanci, Visioni e Tormenti del giovane Carlo Michelstetter debutta stasera a Gorizia al Centro Bratusch, nei prossimi giorni sarà a Feletto Umberto e al Miela di Trieste. La drammaturgia e la regia sono di Claudio De Maglio. A Udine prima tappa nel tour regionale del Dream Gospel Choir di Harlem. Dopo il concerto di questa sera al Teatro Nuovo sarà domani al Concordia di Pordenone e lunedì 15 al Rossetti di Trieste. A Feletto Umberto alle 20:30 al Teatro Maura in Sige c'è in programma La Petite Messe Solennelle, capolavoro di Gioacchino Rossini, con Ilaria Loatelli e Sabrina Reale al pianoforte, Massimiliano Raschetti all'armonium e il coro del Friuli Venezia Giulia diretto da Mario Lanaro. Infine lo sport, basket in A2, torna in campo questa sera la Gesteco Cividale che alle 20 ospiterà l'Urania Milano per il recupero della 14ª giornata. Squadra di Pillastrini al completo e galvanizzata dall'ultimo successo, ma anche gli ospiti sembrano aver ingranato dopo un avvio in ripida salita. Per l'Urania 2 vittorie di fila, l'ultima contro Mestre in una gara tiratissima. Le Aquile sono impegnate in un tour de force che potrebbe portarle in cima, squadra e staff ci credono. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Dario Ronzoni e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Caterina Cabrelli e Mauro Ciccarelli, ha collaborato in redazione Samantha Gon. Sono le 12:52, oggi la prossima edizione in onda alle 15. A tutti voi grazie per averci seguito e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.